Ci fai un quadro del calendario internazionale di questi giorni? Molto volentieri, mi tolgo subito il pensiero della Bundesliga che riparte venerdì 14, tra l'altro con un partitone che è Bayer Leverkusen Borussia Dortmund, Sì. cioè la prima contro la terza, anche se è seconda pari merito. Il Bayer di Monaco gioca il 15 contro il Wolfsburg. Classifica Borussia Dortmund 43, Mainz e Leverkusen 33, Bayer Monaco 29. La Ligue 1 si prende una bella pausa e torna nel weekend 15-16 di gennaio, lì con la solita classifica rimescolata, la guida il Lille davanti al Paris Saint-Germain. Quello che più ci interessa è sotto Natale e Capodanno. Vado di Premier League e vi dico che il 26, cioè il Boxing Day, il giorno di Santo Stefano, c'è Domenica. Manchester United contro Sunderland e Newcastle contro Manchester City. Si comincia alle 13, ora italiana, con Fulham West Ham e c'è anche Aston Villa Tottenham. Da non perdere, secondo me, per nessun motivo al mondo, il 27 alle 21, ora italiana, Arsenal Chelsea. È la ciliegina, diciamo che è lo zucchero filato sul pandoro di questo periodo. Si gioca anche il 28, gioca il Manchester United contro il Birmingham City a St. Andrews. Il 29 c'è il Chelsea contro il Bolton, l'Arsenal contro il Wigan e il Liverpool contro il Wolverhampton. Si gioca praticamente tutti i giorni perché si salta il 30 e il 31, ma l'1 gennaio, quindi In cioè, il primo giorno campo. dell'anno, 13:45 West Bromwich Albion Manchester United. Quindi insomma, per chi fa tardi e mette la sveglia all'1, all'1 e mezza, una colazione e poi la partita. C'è anche l'Arsenal alle 18:30, si gioca anche il 2 Chelsea Aston Villa e poi si gioca 3, 4 e 5. Non si gioca il 6, poi quel weekend lì è dedicato alle FA Cup. Di fatto, tranne il 30 e il 31, si gioca tutti i giorni dal 26 in poi.